Lavoro, soprattutto oggi, forse fa rima anche con lavori pubblici, con commesse pubbliche, infiltrazioni, quindi nel mondo delle commesse pubbliche potrebbero esserci nei prossimi anni più conclamate di quelle di oggi in vista di Expo 2015. L'osservatorio si occuperà anche di questo? Sì, condurremo delle ricerche, delle analisi sull'efficienza della pubblica amministrazione, sul suo ruolo di gestione corretta degli appalti, proprio per evitare i fenomeni di infiltrazione mafiosi ai quali lei prima si riferiva. Ma tengo comunque a precisare che l'attività dell'osservatorio non vuole certamente surrogarsi all'attività giudiziaria e in generale Certo. a quella delle forze dell'ordine, È che sono un, come dire, un sussidio, uno stimolo, un aiuto e anche una sentinella sul territorio per dire sappiamo perfettamente che non siamo un'isola felice. sì, certamente il nostro ruolo è quello di dare impulso a ricerche e analisi, però vorremmo anche agire sul fronte delle proposte e delle azioni Ecco, concrete. Da questo punto di vista, appunto, i soci fondatori, che sono, come ha ricordato Libera, la CGIL, ma anche Lega Ambiente Lombardia, Arci, hanno già proposto, hanno già elaborato un articolato di legge, una proposta di legge per ricondurre il fenomeno del caporalato, una fattispecie illecita, vietata, un reato. Certo. Quindi ci proponiamo anche di suggerire delle soluzioni sul piano giuridico, proprio per tentare di arginare un fenomeno che per una pluralità di complesse ragioni si mostra Certo. sfuggente.